RadioTube Social Network. E questa è la seconda ora del nostro RadioTube. Lo sapete ormai, non c'è più il sabato del villaggio. Mi viene sempre un po' di nostalgia quando ci penso. Ormai è diventato tutto RadioTube, 2 ore dalle 16 alle 18. Dalle 16 alle 17 RadioTube Social Village, un po' come era il nostro sabato del villaggio. La seconda ora RadioTube Social Network, perché guardiamo molto alla rete. Se vi siete persi la prima ora, beh, avete fatto male intanto, perché ci siamo divertiti un sacco, ma potete recuperare col podcast. Abbiamo avuto un sacco di ospiti, abbiamo parlato di Genova perché siamo qui al Salone Nautico, abbiamo in particolare parlato di una serie di imprese pazzesche che sta facendo il team Malingri, Vittorio e Nico Malingri, vabbè, però potete recuperarlo sul podcast. Abbiamo anche avuto il grandissimo Mauro Ermanno Giovanardi, che io adoro, ma adesso siamo pronti a parlare ancora un po' di Genova. Abbiamo un sacco di persone nella nostra postazione. Io sono impazzita in questi giorni guardando i loro video in rete. Facciamo una cosa, provochiamo subito un po' i milanesi con questa compilation di video dei Pirati dei Carruggi. Ciao Milano, allora com'è? Senti, anche noi qui abbiamo un inquinamento allucinante. Vedi, guarda che storia, guarda che roba. Mamma mia! Senti Milano, volevo darti un consiglio, ma voi il problema delle polveri sottili, del PM10, ma non l'avevate risolto pippandovele? Ah. Ciao Milano, tieni duro, Ciao! Ciao Milano, com'è? Tutto burro e marmellata? No? Stai schiumando? Dove sei? In tangenziale? In ufficio, all'Ikea? Dove sei, Milano? Noi anche, guarda qua che casino, guarda che storia malata, Milano! Guarda, c'è Anna e Claudia che stanno uscendo in barca, che dici? Facciamo un giro? Con loro? Certamente! Ma ci sono anche i fidanzati? No! Ciao, Milano! Ciao Milano, allora com'è? Beh, lì ho visto quella storia malata delle palme in Piazza Duomo. Allora Milano, tranquilla, qua palme quante ne vuoi. Guarda questa, questa qua dietro è ignifuga e senza olio di palma. 25.000 euro, ci fai il bonifico Milano e te la mandiamo su impacchettata. Va bene Milano, eh? Oh Harry, è arrivato il pescatore. Pescatore? Sì, c'hai i gamberi. Quanto vuole? 5 kg, 20 euro. Troppo, no, troppo. Milano, comprateli tu, che tanto te li vendo a 220 euro. Ciao Milano, tieni duro, Tieni duro. Vabbè, oggi posso dire anch'io ciao Milano, perché sono qui da Genova, i Pirati dei Carruggi, che io mi sono ascoltata in questi giorni in tutti i modi, qui in tutti i loro social, io li adoro. Allora sono, Enrique Balbontin, ok, Andrea Ceccon, e poi ci sono Alessandro Bianchi, buongiorno ciao, Alessandro, ciao. E Fabrizio Casalino, eccolo buongiorno qua. Ciao, Fabrizio. Ragazzi. Allora ragazzi, com'è nato questo ciao Milano? È colpa di Alessandro Bianchi. Lo sai, vero che poi a Milano si possono anche un po' offendere? Ma guarda, l'idea originale era quella di spingere i genovesi a valutare il paradiso in cui vivono, dandogli questa opportunità di confrontarsi con Milano. E la buttavo lì io, che ho lavorato per tanto tempo a Milano, adesso comunque sono più su Genova. E questo insomma è stato il motivo principale. Poi l'idea è stata ripresa da Enrique, che oggi non c'è perché è andato in pellegrinaggio oggi. Sì, è andato ad Amsterdam a nome di noi tutti, diciamo. Okay. Con tutta la famiglia. E lui l'ha ripreso e gli ha dato un tono un pochino più scanzonato e provocatorio. Qualcuno si è offeso a Milano? No, sì, no. Sì. No, non è un caso che lui dica adesso sono più su Genova, perché Milano non lo fanno lavorare adesso più neanche ai tavoli. Ti fermano al casello di, sì, di... Sì, cioè, vi nasco, non puoi più andare avanti. Ma no, va bene, sì, si va, però con barbe finte, occhiali scuri, impermeabili. Perché hai detto che cioè, i genovesi sono orgogliosi della loro città? Poi vi chiamo ancora in causa anche Andrea Ferro, che è il nostro corrispondente da Genova, ancora. Ciao, con noi. Sempre, ciao, qua, sempre qua, sto sempre ascoltando. Qua. Sentiamo. Ma allora, io parlo da emiliano emigrato a Genova 25 anni fa, ieri. Beh, allora non è genovese. Ormai è genovese. Beh, io per più del 50% del mio DNA ormai si è formato. Beh, ora vogliamo il tuo fascicolo. Comunque, tira fuori il dossier. Comunque, potete già riconoscere l'atteggiamento del ligure, che è sempre un po' poi sospettosissimo, sospettoso, eh? È velatamente negativo, e quindi la sua tendenza è quella a non valorizzare quello che ha tra le mani. E forse non è un caso che sia venuto in mente a un emiliano il fatto di valorizzare una terra meravigliosa. Per me è meravigliosa. Mio nonno, che è un pittore, era un pittore, veniva a dipingere in Liguria, quindi io sono cresciuto in mezzo ai suoi dipinti e ai dipinti della Liguria. Forse non è un caso che io sia venuto poi a 20, non mi ricordo quanti anni, qua a Genova per fare la scuola dello stabile e poi vengono tutti qua, e trovare questa terra per me meravigliosa. Fabrizio, secondo te? Ma la cosa, io sono genovese, doc, differentemente da lui che è un foresto, mezzo che si dice, che poi in realtà è un foresto, io sono nato qua, sono nato a Pegli, dove sono nati Fabrizio De André, Gino Paoli, poi loro hanno avuto il buon gusto di andarsene, emigrare, io invece sono anche rimasto. Alberto Lupo. Anche Alberto Lupo, esatto, e niente, secondo me appunto noi genovesi siamo piuttosto inclini più a mugugnare che a dire le cose, sì, a vedere le cose belle. Siccome siamo estremamente, orribilmente orgogliosi, allora valorizziamo la cosa appena entriamo in contrasto con qualcos'altro, no? Quindi questo, cioè, vedere se sono contro Milano, allora immediatamente sono orgoglioso. Siamo, la verità è che siamo molto campanilisti, secondo me siamo veramente sinceramente orgogliosi e molto campanilisti, e questa cosa viene fuori. Ma esiste una scuola della comicità genovese? Perché allora sulla musica la scuola genovese esiste, sulla comicità? Ma guarda, se quelli c'è una scuola, una, la certezza è che l'abbiamo marinata tutta. Ce la siamo marinata. Okay. Ma ti dirò che io sono nasco cantautore, ti posso assicurare che non c'è neanche quella genovese dei cantautori di scuola. O meglio, se c'era, sono marinata anche maestri, nel senso che ogni tanto però ci dovrebbe essere uno che si presenta, no, in una scuola. Invece questi erano tutti dalle altre parti, e noi che dovevamo fare i cantautori abbiamo dovuto inventarci tutto da soli, è stato difficilissimo. No, comunque sì, la scuola della comicità c'è ed è la strada di Genova. Perché Genova è una città con una personalità estremamente forte, dove devi comunque avere una certa corazza e un certo spirito, perché verrai punzecchiato quotidianamente da personaggi di diverso tipo, e questo secondo me ti fa venire posso fuori. Posso confermare, perché i miei primi tempi qui a Genova erano allucinanti, perché un menaggio continuo. Ma no, ma allucinanti, proprio me la menavano in continuazione, cioè il modo che il genovese ha per dimostrarti il suo affetto è trattarti male. Te lo meniamo, sì, un po', perché beh, menarlo, dai, e non è che è finita lì, no, ancora oggi però ho capito adattato a bozzi. Allora, non ho perso il mio entusiasmo, però devo dire questo è un indicatore molto emiliano, molto importante, quindi, dire, solido. Ma sei emiliano, però sono emiligure, facciamo dire, dovete tenere presente che ha anche studiato 8 anni dai salesiani, quindi c'è un mix delicatissimo. 3 anni comunque Don Accattello, tutto all'interno di te. Allora ragazzi, 17:14 minuti, aggiornamenti per il traffico, poi continuiamo questo esame di genovesità. Alla fine della trasmissione mi direte se è abbastanza genovese Alessandro Bianchi. Allora, tra poco vi faccio ascoltare ancora qualcosa di molto molto carino dei Pirati dei Caruggi, ma prima viabilità e poi ancora insieme. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta RadioTube Social Network. Ciao Milano, com'è? Guarda un po', anche noi siamo in coda qua a Lazio, Vieni duro. Pirati dei Caruggi. Estate 2017. Ciao Milano, ciao Milano. Sciallo totale. Ciao Milano. Ciao Milano, ciao Milano. Il mare è una tavola, la brezza ci sfiora. Ci beviamo un pigato, poi un altro ancora. Sentiamo in lontananza dei foresti parlare. Figa, in questo posto non si riesce a parcheggiare. Arriva l'estate, ci poteva uscire. Al solo pensiero ci sale l'anguscia. Milano c'ha tutto, ma non c'ha il mare. Per questo i milanesi vogliono tutti scappare. Organizzati, pronti a spiaggiare. Il SUV, la barchetta, pippottino e via andare. Ciao Milano, ciao Milano. Siamo tutti pronti, vai tranquilla, ti aspettiamo. Ciao Milano, ciao Milano. Anche quest'estate ti dirò. Ciao Milano. Milano figa raga, la città del lavoro. Ma chi ce la voglia, ti diciamo in coro. Milano bella lì. Allora c'è il nostro Andrea Roccabella in regia che ride da genovese che abita a Milano, sta ridendo da solo. per questa Ciao Milano dei Pirati dei Carucci, che è effettivamente abbastanza aderente alla realtà, ragazzi. Alessandro, Fabrizio, cioè non vi siete cioè è sì, proprio quello che succede. Tra l'altro la cosa è anche imbarazzante, perché noi non ci aspettavamo che poi questa finisse in nazionale così trasmessa. Noi pensavamo che rimanesse nell'enclave genovese, ora che voi l'avete appena trasmessa esatto. A Milano, sì, l'hanno sentita, questo potrebbe aiutare. No, però dai, anche dai milanesi lo sanno che i milanesi fanno così. Sì, cioè. Ma poi sono cara gente, poi bisogna capire che loro in effetti, cioè io quando conosco i milanesi molti mi dicono devi ammettere che tu sei simpatico, però voi liguri con noi di Milano siete proprio stronzi. Si può dire stronzi? Sì, si può dire, sì. E io dico non è vero, noi liguri siamo stronzi con tutti, perché cioè, ci teniamo, è una questione di principio, non ce l'abbiamo con Milano. Ma il mio sogno comunque sarebbe portare quello che è la forza di Milano, che è il lavoro, qui a Genova. Cioè vorrei che tutto tu girasse intorno a Genova. Vuoi sì. portare del sì. lavoro qui? Sì, dovevi sì. dirlo subito, me ne andavo. Secondo me davvero sta dimostrando di essere davvero, deve avere ancora del lavoro da fare per diventare sì. davvero genovese. No, allora lancio l'idea qua a Radio 24. Vabbè, scusa, lancio un'idea a Radio 24. Qua nessuno ha detto che praticamente hai capito che ha detto che nessuno qua fa niente. Sì, in pratica c'è cioè, oh, la ciolla oh, e basta. Oh, cos'è sta storia? No, secondo me manca una centralità economica, centralità che non può genere. Essere solo fondata sull'industria, ma ancora di più sul turismo che sta crescendo, e per potenziare l'offerta sì. turistica di Genova io lancio oggi: ci vuole l'isola davanti a Genova, come a Napoli Capri, l'isola Ischia, ci vuole l'isola davanti a Genova. Quindi ma tipo Alcatraz, no. farne una prigione, trasferiamo Marassi al largo, potremmo fare comunque beh, l'isola di Marassi non è male. A questo punto io, per vedere se sei genovese, non ci resta che farti una biopsia. Lo seguiamo e contiamo sì. gli anelli, ragazzi. Uno dei problemi fondamentali del milanese è quello che è spesso nel traffico, esatto. E i Pirati dei Carucci l'hanno interpretata così. Gianni, senti, allora ce l'ho fatta, sono in Liguria, figa, tac. Ascolta, allora io adesso do dentro il Sergio, prendo sul Paolo, andiamo dal Gianni. Quando sono dal Gianni do dentro il Paolo, prendo sulla roba del Fausto e poi insieme andiamo tutti quanti a Villa Bombrini, che tac, stasera ci sono quei quattro sfigati lì del Pirata del Carugio, come cazzo si chiama, va bene? Come, perché? Fa ridere, è gratis, a UFO, tac. No, non ci credo, ma no, non ci credo, sono in coda, cazzo. No, lascia perdere. Ti chiamo stasera quando sono arrivato al casello, ciao. Ti chiamo stasera quando sono arrivato al casello. Cosa fate voi? Io vedo che c'è un vostro spettacolo al Teatro della Tosse. Sì. Siete. Diciamo che c'è lo spettacolo residenziale, si può dire. Sì. Ok, che è tutti i giovedì dal 26 di ottobre. Sì. E cominceremo la stagione con un grande spettacolo nella sala più grande del Teatro della Tosse il 7 di ottobre. E questo hashtag Desbellinity? Desbellinity, guarda, darei la parola all'inventore della parola Desbellinity. Assumitene le... Desbellinity scritto con la Y, la yes. Y finale, perché sai, in questi è una cosa da, un titolo da hashtag per il nostro primo spettacolo. Questo è stato il primo spettacolo che abbiamo fatto alla Tosse, ormai è il terzo anno che alla CLAC tutti i giovedì ci si esibisce. Lo spettacolo che faremo quest'anno si chiamerà Sotto a chi ciocca, che diciamo è autobiografico. Quello invece dell'anno scorso si chiamava Salaranda, proprio in termini beh, di nautici. Siamo esatto. assolutamente in tema. Quindi abbiamo delle metafore in qualche maniera piratesche, ma quello che facciamo poi è una specie di colorato vaudeville nel quale ci si alterna sul palco e facciamo ognuno per sé e poi tutti insieme in maniera molto anarchica uno spettacolo che tutti i giovedì deve essere diverso, per cui è una sfida innanzitutto a noi che non sappiamo come faremo. Voi avete fatto anche tanta TV insieme, sì. separati in tanti modi, la continuate a fare, le continuereste a farla? Ma io cioè, mi piacerebbe tanto emanciparmene, per esempio l'altra ecco. volta perché di solito la gente ti dice ah tu sei quello di e ti cita esatto. un programma, invece ieri uno mi ha detto tu sei quello di Facebook. Ah, e lì ho capito vedi, che forse vedi, potevo vedi, cioè lavoro qualcosa? Per Zuckerberg e non mi ha mai dato una lira quest'uomo, è incredibile. Siamo tutti suoi dipendenti gratis, è terribile. Comunque sarebbe bello farla magari cominciare, vista l'età nostra, la mia, per esempio, farla un po' meglio come voglio io, non so. Cioè, e come vorresti tu, Fabrizio? Ma, mi piacerebbe che si sbattessero gli altri, che io mi metto lì e loro mi fanno ridere a me. Ecco, okay. Perché sai, sono anni che facciamo i comici da 3 minuti alle facce ride, vai lì e fai ridere. Invece loro mi piacerebbe essere me stesso e fare dell'altro, non so, parlare di fisica nucleare, cose. Molto bello, Alessandro. A me piace fare televisione, mi è piaciuto fare tutta quella che ho fatto, ma quella che proprio mi ha entusiasmato di più è quando ho potuto realizzare tutte le idee che avevo in testa con le mie sfumature, col mio gusto, che nello specifico era Eurovisione, che feci dal 2007 al 2009. Uno sketch show in cui sono riuscito a dare voce e corpo a tutte le idee che mi erano passate per la mente sino a quegli anni. Ora ne ho altrettante, se c'è qualcuno che vuole produrre una nuova serie, eccomi qua. Fantastico. Noi a RadioTube Social Network siamo sempre molto attenti ai nuovi fenomeni della rete, soprattutto questi ragazzi giovanissimi che ci permettono un po' di avvicinarci al linguaggio dei più giovani. Io questa settimana ho scoperto, un po' come faccio tutte le settimane, uno youtuber giovanissimo e davvero particolare che si chiama Mirko, eccolo qua. Sta il pranzollo, poi ci sentiamo sul cielo. Raga, sono Mirko, volevo fare due parole, scazza. Ah, oggi sono preso troppo male perché l'esistenza è troppo robosa. Adesso sono tutti in paranoia per noi giovani, cioè che dicono che siamo una generazione senza futuro, cioè che non avremo mai un lavoro. Oh, ma chi ve l'ha chiesto? Tipi, state scialli, cioè ci state sottovalutando, faremo sto sacrificio. Piuttosto, se volete fare qualcosa per i giovani veramente, aiutateci a risolvere le vere questioni giovanili. Per esempio, aiutateci a debellare la scuola. Dai, la scuola è troppo inutile. Cioè, capisco che magari un tempo serviva, ma adesso ci abbiamo l'iPhone. Cioè, hai presente quello che ti insegnano a scuola? Delle cose assurde, tipo, cioè, i decametri. Ma quando c***o mai hai visto un decametro nella vita? E il teorema di Pitagora? Cioè, per quale ragione una persona sana di mente dovrebbe andare in giro a costruire dei quadrati sull'ipotenusa? Ho capito che erano i greci, che non ci avevano la play e quindi giocavano coi triangoli. Cioè, vabbè, fa tenerezza, però che palle. Chi è Mirko? Un mix di tutti i ragazzi che ho conosciuto fin qui. Mi piace la gente, perché la cosa triste meravigliosa di Mirko è che i genitori vedono in Mirko i loro figli con dolore e i ragazzi invece vedono nei genitori di Mirko i loro genitori. È strano, però funziona ancora, ha 10 anni, quindi speriamo funziona. Che poi biondo sei molto figo, sì, col capello. Se mi trasformo completamente, la gente non mi riconosce più, tipo è pazzesco. Sentite, è cambiata la comicità con YouTube? Sì, è molto cambiato. Secondo me sì, perché innanzitutto prima la comicità era un mestiere, nel senso che capitava che lo facessi, avevi anche dell'esperienza, avevi fatto, come si suol dire, la gavetta. Pensa che bella questa cosa, la gavetta, che è un termine addirittura credo del 45, la gavetta, nessuno sa neanche più cos'è, no? Comunque vabbè, adesso invece chiunque può diventare il fenomeno del momento con un video e poi però cosa fai dopo? Ecco, e poi però è vero, oppure tutte le centinaia di battute e di battutisti che si trovano su Twitter, sì. Battute fulminanti, dai quali molti colleghi però un po' pescano ogni tanto. Sì, molto, sì. E poi è diventato come il giornalismo, che ci sono tanti che lo fanno gratis, ma esatto. Allora poi è difficile farlo per mestiere. È difficile fare le distinzioni tra i professionisti e gli amatori, diciamo, a certi livelli, ma è molto strano. Per lo stile è cambiato qualcosa? Guarda, è una domanda molto difficile questa, perché è difficile, per me è difficile dare una risposta, perché in realtà mi piacciono, cioè verrebbe naturale da noi professionisti che abbiamo studiato criticarli, parlarne male, ma in realtà mi piacciono, cioè i Pantellas mi fanno ridere. Non tutti i video, però in alcuni li trovo geniali, dico cavoli, ma come gli è venuto in mente la visione della nonna? No. E sono eccezionali, è quindi vero, vero, mi piacciono, sono molto freschi, molto veloci. Esatto. E secondo me noi dobbiamo imparare anche da questi nuovi fenomeni. Quindi sì, è nuovo secondo me come linguaggio. Infatti la cosa, la risposta è sì, è cambiato nella velocità. Comunque è cambiato tutto il ritmo al quale anche noi dobbiamo fare le cose, nel senso che è tutto molto più veloce. Poi sì, cioè per far ridere devi avere un'idea comica, quindi appoggiarti a uno schema comico, a un'idea, e loro ce l'hanno. Quindi da questo punto di vista strutturalmente no, ma formalmente sì, è aumentata la velocità, e comunque c'è sempre una ricerca dell'idea, non è sempre solo fine a se stesso. Ho ancora un sacco di cose da chiedervi, però adesso facciamo una brevissima pausa, poi butto sul campo anche un altro argomento, perché tra poco vorrei parlare anche di Harry Potter. Non so se voi siete preparati, poi vi interrogo su Harry Potter, vabbè, insomma. Su tutto, su Harry Potter. Allora, una breve pausa e poi saremo ancora insieme con il nostro Radio YouTube Social Network a tra pochissimo. Radio YouTube Social Network. Ed è l'ultima mezz'ora in diretta qui dal Salone Nautico di Genova. Sta arrivando un tramonto veramente pazzesco sul mare. Vedo le vele, vabbè, insomma, mi sta venendo un momento di poesia che mi ammazzo subito. Allora, qui in postazione abbiamo un sacco di persone. Abbiamo sempre il nostro Andrea Ferro. Io ho detto qua, Andrea Ferro da piantone, Genova, guarda, perché noi non possiamo essere a Genova senza Andrea Ferro, che è il nostro lascia passare. Esatto, è il nostro lascia passare per essere a Genova e al puoi Salone Nautico. Poi proseguire. Grazie, puoi grazie. E poi abbiamo ancora con noi per i Pirati dei Caruggi Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi. Ciao. Ragazzi, ciao. Allora, io prima vi ho chiesto se è cambiata la comicità ai tempi di YouTube, perché noi a Radio YouTube Social Network, si capisce anche dal nome, frequentiamo tanto la rete. Vi voglio chiedere se generazionalmente, e adesso mi cospargo da sola il capo di cenere per aver usato questo avverbio orribile, a volte questa cosa vi crea fastidio, perché noi che abbiamo sopra i 35 sopra i 30, ci possiamo dire sopra i 35. Adesso capita a voi di dividere i palchi, a noi di dividere le pagine o il microfono, sì, con i ventenni. Voi, gente come i Pampers, per dire, li trovate più o meno sullo stesso palco, magari nella trasmissione televisiva. Che effetto vi fa? Anche perché poi voi dovete parlare, far ridere non solo i coetanei, ma anche i ragazzini. Sì, non so, io generalmente, vedi, bisogna vedere che tipo di approccio hai al tuo lavoro. Io faccio sempre, ho cercato di fare quello che faceva ridere me, no? Quindi questo in qualche maniera mi emancipa da qualunque forma di pubblico, a patto che tu possa farne completamente a meno, d'accordo? Però diciamo che nel mio caso credo che i ventenni si siano completamente volatilizzati dal mio pubblico. Io non so che fine hanno fatto, anche per strada non li incontro. Credo che siano tutti in massa emigrati alle isole Cayman. Ah, ok, beh, forse per ottime ragioni. Ma io ho uno spirito di corpo, cioè mi sono simpatici, amo tutti quelli che fanno ridere, perché proprio amo ridere come emozione principale su tutte. Mangiare, fare l'amore passa la voglia, ridere non passa mai. A me non passa, ma ha guardato malissimo Andrea, però. No, ci mancherà. No, tanto non costa nulla. Non costa nulla. Stimo tutti quelli che sono in grado di far ridere. Magari qualcuno non mi fa ridere, però se fa ridere il pubblico, io rispetto il pubblico e quindi. Sai, amo tutti. Dopo un attimo di riflessione ti dico che secondo me tutte quelle cose lì, quelle tre cose lì tutte insieme nello stesso momento sono il massimo. Sì. Non è facile. Nello stesso acrobatico. Momento. Fascia protettissima. Vabbè, ragazzi, no, Radio 24 è aperta di vedute. Allora, ragazzi, apriamo una nuova pagina nel nostro Radio Tube Social Network. Mi fate compagnia, pirati? Posso fare la voce? Posso sostituire Christian Jansante? Christian Jansante, sì. Cosa devo dire? Il momento della filosofia. Vado. Sigletta, va. Il momento della filosofia. È fantastico perché hai esattamente colto. Perché lui è lì. Sì, la voce della nostra voce ufficiale, Christian Jansante. Numero uno. Che ha questa. Sì, anche un po' sexy questo ritorno. Dannata, una voce dannata. Dannata. Salutiamo Christian Jansante. Allora, ragazzi, c'è un fenomeno che non è un fenomeno di oggi, è ormai un fenomeno che, del quale non possiamo fare a meno. Tra l'altro, vedo un sacco di bambini qua di fronte alla postazione di Radio 24 e siamo proprio in tema giusto, che ci fanno ciao, sono tutti uno più bello dell'altro. Non so come fanno a essere tutti belli questi bambini. bambini di Genova. Poi crescono, non darci confidenza, che ti chiedono i soldi. Vabbè, ragazzi, sono Brianzola, io sono corazzata. Allora, sentiamo se riconoscete un estratto di questo libro. Il signore e la signora Dursley di Private Drive numero 4 erano orgogliosi di affermare di essere perfettamente normali, e grazie tante. Erano le ultime persone al mondo da cui aspettarsi cose strane o misteriose, perché sciocchezze del genere proprio non le approvavano. Il signor Dursley era direttore di una ditta di nome Grannings che fabbricava trapani. Era un uomo corpulento, nerboruto, quasi senza collo e con un grosso paio di baffi. La signora Dursley era magra, bionda e con un collo quasi due volte più lungo del normale, il che le tornava assai utile, dato che passava gran parte del tempo ad allungarlo oltre la siepe del giardino per spiare i vicini. I Dursley avevano un figlioletto di nome Dudley e secondo loro non esisteva al mondo un bambino più bello. E scommetto che l'hanno riconosciuto quasi tutti, è Harry Potter. È l'inizio, il primo libro di Harry Potter. Insomma, Harry Potter è sempre di moda. Molti bambini in molte zone d'Italia sono impazziti perché adesso c'è un noto supermercato che fa questa collezione di pupazzetti ancora di Harry Potter. E poi ci sono gli zaini, le cartelle, i quaderni. Il fenomeno di Harry Potter non si arresta mai. Questa settimana c'è addirittura un'altra novità. Avete sentito la voce di Francesco Pannofino? Perché Francesco Pannofino è la voce narrante, la voce che ha letto tutti i libri, o meglio sta leggendo tutti i libri di Harry Potter per degli audiolibri. Per la prima volta Harry Potter diventa un audiolibro di Audible, che è quella piattaforma online che ti permette di consumare così un po' invece di all you can eat, all you can hear, cioè tutti gli audiolibri che si vogliono con un piccolo abbonamento mensile. Noi che siamo sempre attenti alla rete siamo andati a curiosare dietro le quinte di questo Harry Potter in audiolibro e ci siamo fatti raccontare proprio da Francesco Pannofino com'è andata, qual è il suo rapporto con Harry Potter. Devo dire, ho fatto un bel rinfresco di memoria e poi la fortuna di leggere tutti i libri integrali, tutta la versione integrale di tutti i libri di Harry Potter, e questo devo dire che chiaramente se un'opera bella come Harry Potter ti fa scatenare la fantasia, ma sentendo una voce terza che legge, che non è nell'autore e che legge la storia, è come un nonno che racconta la favola ai bambini. Però lì è divertente, succedono cose, ogni pagina succede un macello, sempre problemi, pericoli, e poi come spessore narrativo c'è anche il fatto che non dimentica l'autrice, oltre a raccontare le storie di maghi, streghe e fantasia, di cogliere l'aspetto umano della vicenda e di narrare i rapporti umani, i sentimenti, i caratteri delle persone, i comportamenti umani. Devo dire che lo fa in maniera magistrale, per questo ha avuto così tanto successo, perché secondo me c'è questo spessore narrativo che lo contraddistingue. A che punto sei arrivato con la lettura? Sono al settimo libro. Sei conquistato? Sì, alla grande. Ormai sono un fan di Harry Potter. Mi volevo vestire da maghetto, ma me l'hanno poi sconsigliato quelli dell'ufficio stampa. Cattivi. Ultima domanda. Quante volte ti hanno chiesto, ma René Ferretti cosa direbbe? Ti fa piacere o dici basta? Però René Ferretti vorrebbe, chi vuole fare il mago? Chi vuole fare il maghetto? Eccolo qua, via qua. Ma non c'era un altro, guarda che faccia che c'è questo. Vabbè, va bene tu, dai, basta che giriamo però, Era Francesco Pannofino, la voce di questo Harry Potter in audiolibro per Audible. Ma qual è il segreto di Harry Potter? Perché ha sempre così successo in qualsiasi versione? Vabbè, insomma, vogliamo capire perché. Abbiamo qui con noi nella postazione di Radio 24 al Salone Nautico di Genova l'autore di La filosofia di Harry Potter, vivere e pensare con un classico contemporaneo, edito da Ponte alle Grazie, Simone Regazzoni. Buonasera Simone. Buonasera a voi. Allora, lo so che è una domanda da 10 milioni di dollari, ma perché? Perché questo Harry Potter è così amato? Ma perché noi ci siamo abituati nel Novecento a leggere una letteratura sempre sempre più penitenziale, cioè una letteratura ombelicale, difficile, un po' noiosa. E poi a scuola ci trovavamo i Promessi Sposi con Apparato di Notte, cosa che ti metteva davvero in difficoltà. E qui invece abbiamo una narratrice che narra. Noi siamo abituati ai libretti un po' piccolini, problemi sentimentali, no, invece qui viene costruito un mondo che è affrontato da diversi punti di vista, e abbiamo la narrazione in quello che è, cioè trama, capacità di coinvolgerci, personaggi straordinari, avventura, perché poi la narrazione nasce come avventura, cioè un soggetto che si mette alla prova e cresce. Qui abbiamo però qualcosa di straordinario, sono 7 volumi in cui i protagonisti crescono, almeno all'inizio, nasce 20 anni fa Harry Potter, insieme ai lettori, e anche la scrittura stessa cresce insieme ai protagonisti, qualcosa che non si è mai visto. Riesce un po' a appassionare come oggi appassionano le serie TV, quello che la letteratura spesso non riesce più a fare, perché questo significa raccontare storie che coinvolgano i lettori. Ma tu sei andato proprio a prendere dei filosofi veri come fonti e come possibili parentele con Harry Potter? Ho fatto questo perché ci sono delle parentele. Albus Silente è stato ispirato a John Dee, che è stato mago, filosofo, matematico. Ma al di là di questo, di fonti filosofiche più o meno inscritte nel testo, c'è qualcosa di ancora più grande. La filosofia nel Novecento si è occupata tantissimo di letteratura. Testi su filosofia Dostoevsky, filosofia e Joy, però sulla letteratura per ragazzi l'ha snobbata, perché in fondo era qualcosa non ancora all'età della ragione. Questo era uno dei pregiudizi, ad esempio, di Croce. Invece no, un fenomeno di questo genere non può non interessare la filosofia, se la filosofia il proprio tempo ha preso col pensiero. Quindi interrogare Harry Potter significa interrogarsi su tutta una serie di temi etici, politici. Un grande filosofo francese ha scritto un saggio su Harry Potter dicendo: abbiamo una straordinaria riflessione politica, ma anche sui temi su che cos'è la razionalità, che rapporto c'è tra la magia come potere di fare cose con le parole nei soggetti. Quindi è molto più profondo di tanta letteratura un po' supponente e saccente. Però fuori onda ci dicevi che è nato in famiglia questo libro, però. Ma certo che nasce in famiglia, perché ho la mia bimba che adesso ha 6 anni, gli è stato letto Harry Potter, ha visto già tutti i film di Harry Potter ed è una piccola maghetta appassionata, quindi questo libro è una casa dedicato a lei, alla mia figlia Giulia. Ma questo secondo me è anche bello per dire che la filosofia, come ricordava Epicuro, è qualcosa per tutti, non si è mai né troppo giovani né troppo vecchi per farla. Io l'ho fatta con Harry Potter. Io adesso chiedo ai due pirati, non vi interrogo sulla filosofia ma su Harry Potter, vostro rapporto con Harry Potter? Il mio rapporto è stato di vedere il primo film perché dovevo farne l'imitazione per un programma televisivo. E come si è fermata lì, non, ma non ti ha dato soddisfazione? No, non mi aveva coinvolto, no. Io sono un convinto sostenitore di Harry Potter. Ho letto il primo in inglese perché sono un intellettualoide, sai? E poi ho visto tutti i film a causa del mio giovane figlio, che a 6 anni mi ha del tutto identificato con Voldemort, perché sono calvo e quindi io ero Voldemort condannato solo per quello, ovviamente. E dovevo parlargli sempre con sottovoce, dicendo tipo: Harry Potter, portatemi Harry Potter. Per mesi sono quasi impazzito, ma lui era felice, quindi sai, per i figli si fa qualunque cosa. Si scrivono anche dei libri come La filosofia di Harry Potter, Vivere e pensare con un classico contemporaneo, edizione Ponte alle Grazie. Grazie Simone Regazzoni, quindi adesso dobbiamo arrenderci, perché continuerà questo fenomeno, non è destinato a scemare Harry Potter ancora per un sacco di tempo, Simone? Assolutamente sì, non a caso è un classico. Quando 500 milioni di lettori in tutto il mondo comprano Harry Potter, segna l'immaginario, la cultura e la formazione di una generazione, ormai si è iscritto nella storia. Grazie Simone, traffico e poi saremo ancora insieme con l'ultima parte del nostro Radio Tube qui da Genova. Che tramonto, che meraviglia, tra poco! Radio Tube Social Network. Ed è l'ultimo spicchietto del nostro Radio Tube qua in diretta dal Salone Nautico di Genova. Che meraviglia, ragazzi, qua veramente la sera che sta per calare ed è uno spettacolo qua, sì. Lo so, continuo a dirlo. Mi sta venendo, Andrea Ferro, mi sta venendo, sì, un momento di romanticismo. Abbattetemi subito. No, perché? No, abbattetemi tanto poi subito. Stasera torni in Brea. Anzi, esatto, mi passa tutto. Sono 3 gradi già, 3 gradi. Sì, ci sono gli orsetti. 3 gradi. E poi lo sapevo io che farmi circondare da genovesi genovesi, poi capiremo, mi direte quanto è diventato genovese Alessandro Bianchi. Succedeva così, ma non lo è. Ma io sono pronta e sono resistente. Vi faccio una domanda delicatissima: siete tifosi, anche perché c'è in assistenza oggi Giorgio De Luca, che è il nostro autore di tutti i convocati, quindi lui ne sa di sport. Siete tifosi? Io no, io non sono appassionato di calcio, perché è una cosa che guarda, non sto ad aprire il contenitore delle critiche al calcio, quindi okay, dico quindi solo di no. Non rischiamo niente. Fabrizio? Io non sono mai riuscito a giocare a pallone, la vedo come però una specie di grave mancanza nella mia vita, cioè mi sarebbe molto piaciuto a livello sociale avere anche qualcosa di cui parlare con gli altri maschi, perché fino a 14 anni, quando abbiamo avuto poi lo sviluppo, io non riuscivo ad intavolare una conversazione perché capito? Io avevo la chitarra, a un certo punto mi sono buttato sulla chitarra per cercare di riempire questi pomeriggi orribilmente vuoti. Ho fatto una sola partita in tutta la vita, ho giocato una volta sola perché andavo a una scuola col semiconvitto, quindi stavo lì tutto il pomeriggio, tutti giocavano a pallone, sapevano che io non volevo giocare e mi hanno, questo te la racconto perché è la storia del mio rapporto col calcio, questi mi dicono devi entrare in squadra, perché io dico no, non so giocare, non so fare niente, no per piacere fallo, perché se no non possiamo giocare, devi fare numero, ci servi per fare il numero, e dico va bene, allora entro, però non so giocare, perché non so giocare, va bene, non c'è problema, stai in porta, mi dicono sto in porta e aspetta che la partita si svolga davanti a me. A questo punto, a un certo punto dell'azione, parte uno che presumo sia della squadra avversaria, perché corre nella mia direzione. Okay. E quando arrivo ormai completamente solo a metà davanti a me, questi cominciano a gridarmi esci, esci, esci, e io esco dal campo e dico ma perché mi hanno detto di entrare, che poi mi dicono esci, no? E questa è tutta la partita che ho fatto nella vita. Ok, abbiamo capito perché è finita così. Io adesso vorrei farvi sentire un brevissimo estratto di una telecronaca, non so nemmeno io come definirla, vabbè, molto particolare, eccola qua. Eccoci qua dunque a Marassia, tutto pronto tra Sampdoria e Roma, siamo partiti subito con il primo pallone toccato dai giallorossi, subito un errore sulla fase di impostazione però da parte di Kevin Strootman, che poi recupera nella tre quarti giallorossa. Bruno Peres riceve il pallone, prova ad andare il brasiliano al centro per Perotti, poi in Angolan si chiude il triangolo con proprio Diego Perotti, ma alla fine recupera la Sampdoria, si riparte da Torreira, poi Barreto. Ed ecco in azione Dodò, il nostro ex Dodò, esatto, proprio ex Roma, in questo momento è ad attaccare proprio Mattia con la Sampdoria. Muriel sulla tre quarti campo, manovra un pallone, cerca qualche finta, riesce nelle sue finte, trova un giocatore, è pronto per il cross Dodò, vediamo invece un'altra finta, bellissima questa azione di Mattia che non si è conclusa però con il gol. Allora, posto che la Roma ha battuto l'Udinese questo pomeriggio 3-1 nell'anticipo della sesta giornata di Serie A. Ti interessa questo risultato? Sì, mi interessa, capito? Mi interessa che la Roma abbia battuto l'Udinese, che siamo a Genova abbiamo al telefono, sapete chi? Abbiamo al telefono la Sampdoria, ma tutta! Abbiamo Mattia Guarracino, Mattia! Ciao, buon pomeriggio a tutti! Allora, Mattia, spieghiamolo, che cos'era quella che abbiamo sentito? Allora, quello che avete sentito era praticamente un pezzettino della telecronaca della partita tra Sampdoria Esports contro S Roma Esports, che ho giocato io contro il videogiocatore della Roma. Cioè, Esports, sapete cos'è? Esports? No, cos'è? Mattia, non lo sanno, spieghiamoglielo. E-sports sarebbe l'acronimo di Electronic Sports, cioè indica i videogiochi giocati in maniera competitiva. Cioè, Mattia è la Sampdoria, lui è tesserato Sampdoria. Fantastico. Sì, anche per il Sampdoria Roma è stata rinviata per il maltempo. Però loro hanno giocato, anzi, dovevano fare proprio una sfida parallela, no? Sampdoria Roma in campo e fuori campo. Ma tu come sei messo fuori campo, Mattia? Cioè, in campo con la palla vera? Quello reale. Beh, io ho giocato parecchi anni, quasi 10 anni a pallone reale. Quindi? Però ero anche appassionato ai videogiochi, quindi ho unito le due cose, insomma. L'idea è del presidente Ferrero? Sì, diciamo che gli abbiamo spiegato insieme alla mia associazione eSports Academy com'è più o meno questo settore eSports parecchio tempo fa, lui è rimasto subito affascinato e praticamente ci ha subito coinvolto con la squadra, perché già prima della Sampdoria erano uscite già West Ham e Wolfsburg come squadre reali. E quindi voi che tipo di, cioè che squadre sfidi, cioè tu appunto in questo in questi campionati, diciamolo, dietro una console? Allora, da poco stanno uscendo tantissimi team, difatti già c'è stato il primo campionato mondiale soltanto per i videogiocatori che fanno parte dei club ad agosto. e quindi in quel caso ho affrontato tutti i videogiocatori che già fanno parte di un club della Serie A, che sia italiana o spagnola o tedesca, altrimenti comunque altri videogiocatori comunque competitivi, professionisti che giocano in questo settore. Allora, so che vi sembrerà strano perché è veramente molto avanti questo settore. Io vi dico solo che qualche giorno fa ero alla presentazione di un rapporto, di un serissimo rapporto economico della PwC, che è un rapporto che parla del futuro dei media e dice che nei prossimi anni i due settori che sono stati inseriti nel futuro dei media in questo rapporto sono la realtà virtuale e proprio gli e-sports. Quindi stanno davvero prendendo piede e ci sembreranno normali. Ci potrà essere, secondo te, Mattia, un campionato parallelo al campionato di Serie A? Assolutamente sì, perché già in Olanda e in Francia esiste. Beh, straordinario. Mattia, allora noi ti seguiamo la tua attività attraverso i tuoi canali. Tu sei Lone Wolf 92, sì, cioè Lupo Solitario 92, così già tu sei talmente giovane che puoi anche dire quanti anni hai. Lone Wolf 92, e scopriamo tutte le tue sfide e così capiremo anche quali altre squadre italiane si aggiungeranno per sfidare Mattia, che è la Sampdoria. Ragazzi, abbiamo avuto tutta la Sampdoria al telefono. Grazie Mattia, a presto. Grazie a voi. Grazie mille, ragazzi, qua sta cambiando tutto, eh? È incredibile, intanto è incredibile vedere che ci sono persone nate dopo il 1990 e non fanno l'asilo. Esatto. E sono tra noi. Quindi mi posso riscattare, posso giocare a pallone anch'io. Puoi, esatto. Ma puoi farti giocare a Quidditch. A Quidditch, esatto. Ragazzi, per chiudere abbiamo poco più di 30 secondi. Alessandro Bianchi è abbastanza genovese o no? No, grazie. Assolutamente no. No, allora dobbiamo rifare una puntata del genere a Genova. Io torno, rifacciamo Radio Tube Social Network a Genova, rimettiamo la prova. Ma sono inguaribilmente ottimista, quindi non lo sarò mai. Intollerabile. Forse è operabile. Allora, no, ragazzi, non credo. Ho tantissimi ringraziamenti da fare, ce la farò. Allora, i pirati dei Caruggi sono stati con noi, la nave che ci viene a salutare. Andrea Ferro da Genova, poi ciao, qui ciao, a Genova buonasera. C'erano Giorgio De Luca, Alessio Petrucci, Andrea Roccabella, Elena Ligio, a Milano c'erano Valentina Ternulli e c'era anche c'è Valeria Bernardi in regia. Sono le 17:55, ci stanno venendo a prendere, restituiscono la linea a Milano. Ciao! Ciao, saluto ciao. Anch'io.